Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Antonia seguì con gli occhi il monaco come se non potesse staccarsi dalla sua vista. E quando fu del tutto scomparso dietro la porta, una lacrima silenziosa le scivolò sulla guancia. L'umiltà traboccava dal viso del monaco, modellava tutto il suo contegno, ma la rappresentazione era troppo perfetta per venirgli dal cuore. «È separato dal mondo e forse non lo rivedrò mai più», disse Antonia. Asciugava quella lacrima e Lorenzo notò il suo gesto. «Chi non rivedrete mai più?» le chiese, avvicinandosi con la certezza di avere finalmente trovato un argomento serio di conversazione. «Come mi hanno commosso le parole di questo predicatore», gli rispose fissandolo con i suoi occhi tranquilli, resi ancora più belli dall'esaltazione. «Non sapevo che la parola di un uomo potesse toccare il cuore fino a questo punto, che bastasse una semplice voce umana per risvegliare in noi tanti sentimenti nascosti, profondi. Mi sembra che quest'uomo mi abbia rivelato il mio cuore». Lorenzo sorrise della forza di questa espressione. «Siete giovani», disse, «e il vostro cuore, non contaminato, si abbandona con tutto l'ardore alle apparenze che lo investono. Essendo voi stessa piena di innocenza, non supporreste nel mondo una duplicità che vi è estranea? Che sventura che il contatto con la realtà vi debba svelare la bassezza dei vostri simili e insegnarvi a guardarvene come da altrettanti nemici?» «Purtroppo, signor», rispose Antonia, «le sventure dei miei genitori mi hanno fornito anche troppo tristi esempi della cattiveria del mondo, ma sono sicura che stavolta il calore della mia simpatia non può avermi ingannata». «Questa volta no, lo ammetto. La fama di Ambrosio mi pare al di sopra di ogni sospetto, e del resto un uomo che ha trascorso tutta la vita tra le mura di un convento non può aver trovato occasione di far male, anche se le sue inclinazioni ve lo avessero spinto. Ma ora che, per i doveri che competono alla sua posizione, dovrà trovarsi di tanto in tanto nel mondo scaraventato sulla via della tentazione, ora dovrà mostrare quanto vale esattamente la sua virtù. È un esperimento pericoloso. La sua fama ne farà una vittima ideale per le seduzioni. La novità aggiungerà le sue attrattive a quelle del piacere, e le qualità di cui la natura l'ha dotato contribuiranno alla sua rovina, mettendogli a portata di mano i mezzi per soddisfare i suoi desideri. Ben pochi uscirebbero vincitori da una simile lotta». «Per quanto pochi, Ambrosio sarà tra questi». «Neanch'io ne dubito. Sono certo che da tutti i punti di vista fa eccezione tra gli uomini e che l'invidia cercherebbe inutilmente una macchia nella sua reputazione». Intorno a loro la folla premeva verso l'uscita. Lo scalpiccio e la pressione dei corpi schiacciati gli uni contro gli altri sprigionavano un miscuglio di polvere, di sudore e di afa. «Per tutto l'oro del mondo», giurò Don Cristobal, che i risucchi della folla avvicinavano e allontanavano di volta in volta da Lorenzo, «per tutto l'oro del mondo non prenderei come confessore un uomo che parla così bene dell'inferno». E a queste parole strinse il gomito di Leonella sul suo cuore. «Oh, caro signor, non stringetemi così se mi amate. Considererò la vostra obbedienza come una prova del vostro affetto. Riceverete domani mie notizie. Addio, dunque, miei cavalieri. Posso chiedere i vostri nomi?» «Il mio amico è il conte di Ossorio. Io sono Lorenzo di Medina». «Questo basta. Ebbene, don Lorenzo, informerò mia sorella di quanto gentilmente ci proponete e vi farò sapere al più presto la sua risposta». Leonella si affrettò allora a lasciare la chiesa e la dolce Antonia la seguì in silenzio, ma al momento di raggiungere il portone si girò quasi senza volere e i suoi occhi incontrarono quelli di Lorenzo, che le fece un profondo saluto. Antonia glielo restituì e si ritirò precipitosamente. Erano ora arrivati ai piedi della cattedrale. L'ombra ne inghiottiva lentamente i particolari. Sul sagrato i passanti si diradavano, i gruppi che lo avevano animato già da un pezzo si erano dispersi. Una umidità azzurrognola velava le facciate delle case. Cristobal, che aveva rispettato fino allora il silenzio dell'amico, esclamò con tono scherzoso: «La piccola Antonia vi ha colpito?» «Non posso dirvi fino a che punto mi ha affascinato. Dopo la morte di mio padre, mio zio, il duca di Medina, mi ha dichiarato il suo desiderio di vedermi sposato. Finora ho fatto orecchie di mercante, rifiutandomi di capire le sue proposte, ma quel che ho visto stasera...» «E che avete visto mai stasera? Sul serio, Lorenzo, siete per caso diventato così pazzo da pensare di sposare la nipote del più probo e più laborioso calzolaio di Cordova? Dimenticate che è anche la nipote del marchese della Citernas. Ma senza stare a discutere la sua nascita e i suoi titoli, posso assicurarvi che non ho mai visto una donna interessante quanto Antonia. Può darsi, dopo tutto, ma non penserete seriamente di sposarla?» «Perché no, mio caro conte? Sarò ricco per due. E sapete che mio zio di Medina non ha pregiudizi su questo punto. D'altra parte, per quel che so di Raimondo della Citernas, sono sicuro che riconoscerà Antonia per sua nipote senza nessuna difficoltà. Mi considererei il più grande miserabile se solo potessi pensare di sedurla. Sembra riunire in sé tutte le qualità che posso desiderare in una donna: giovane, gentile, bella, dolce, intelligente.» «Intelligente? Ma se non ha saputo dire altro che sì e no!» «Non molto di più, lo ammetto, ma sempre tanto a proposito.» «Davvero? Mi arrendo. Questo è quel che si chiama un argomento di innamorato e non oso discutere con un dialettico così sottile. Perché non andiamo a teatro?» «Non posso assolutamente. Sono a Madrid solo da ieri sera e non ho ancora visto mia sorella. Sapete che il suo monastero è su questa strada e ci stavo proprio andando quando mi ha distratto la curiosità di sapere il perché di tutta quell'affluenza verso la chiesa. Riprenderò ora la mia prima direzione e probabilmente passerò la serata con mia sorella alla grata del parlatorio.» «Dite che vostra sorella è in convento?» «È vero, l'avevo dimenticato. Come sta Donna Agnese? Non capisco come vi sia venuto in mente di rinchiudere in convento una ragazza così incantevole.» «Io? Don Cristobal, come potete sospettarmi di una simile barbarie? Ha preso il velo di sua volontà e ci sono volute delle circostanze straordinarie per farle desiderare di lasciare il mondo per sempre. Ho fatto tutto quello che ho potuto per farle abbandonare questa funesta decisione. Tutti i miei sforzi si sono dimostrati inutili e ho perso per sempre mia sorella. Adesso addio, mio cavaliere del Monte Etna, e ricordatevi che ogni volta che sarà necessario che faccia la corte alla vostra vecchia briccona, potete contare su di me.» E così dicendo, si slanciò definitivamente per la strada. L'ombra migrava dagli angoli verso l'abside. A malapena un lumino tremante davanti all'immagine di un santo rompeva l'oscurità. I pensieri di Lorenzo armonizzavano stranamente con la malinconia solenne del luogo. Il vuoto che lasciava in lui l'assenza di Antonia, il pensiero della sorella chiusa in un monastero di cui l'amico gli aveva ora ricordato crudelmente il sacrificio, lo riempivano di funebri fantasie. Smarrito, si lasciò cadere su un banco, pieno di stanchezza e di desolazione. Mentre era così accasciato, la testa tra le mani, la sua immaginazione esplose. L'aspetto della cattedrale, del resto, era cambiato. L'oscurità gotica delle navate si era d'un tratto popolata di rumori, di luci. Una moltitudine di lampade d'argento, sospese alle arcate, mescolavano il loro bagliore ai raggi della luna nascente. Vedeva davanti a sé i movimenti di una folla singolare, piena di sorrisi e di bisbigli. Sua madre, morta, teneva per mano Antonia e gliela presentava con un'espressione di amaro rimprovero. «Ecco», gli diceva, «ecco l'ombra della tua infelice fidanzata». Antonia lo guardava e arrossiva, era in ginocchio davanti a lui e lo contemplava con in viso una gioia indicibile. «A partire da questo momento», gli diceva, «sei mio e sono tua, e nemmeno la morte ci ha separati». Le loro labbra, per la prima volta, erano sul punto di toccarsi quando una forma brutale, fendendo l'aria, li strappò senza pietà l'uno all'altra, mentre una voce gigantesca tuonava, inchiodando Lorenzo dal terrore: «Orgoglio, lussuria, inumanità!» Un senso di nausea lo investì. Si sentì urtare da un soffio brusco nel cielo temporalesco i raggi di un sole glaciale. Sollevavano Antonia sopra di lui. Una gioia strana lo afferrò, che era legata al volo della forma luminosa, e più Antonia saliva, più sentiva crescere il suo inspiegabile rapimento. Tutto era finito. Ma che importava, infine, poiché tutto era sul punto di ricominciare, l'inizio di un nuovo mondo e di una nuova vita. Ai suoi piedi la terra rotolava come un astro scardinato. Che ora poteva essere? Stava per lasciare la chiesa quando l'ombra proiettata sui muri dal chiarore di una foresta di ceri attirò la sua attenzione. Lorenzo volle slanciarsi ed ebbe quell'orribile impressione dei sogni che gli avessero mangiato le gambe, mentre un uomo che non conosceva davanti a lui fasciava Antonia di carezze oscene e lei gliele rendeva con passione. La cattedrale era scomparsa. Egli era al centro di una specie di apertura luminosa, simile alla bocca di una caverna nella quale pendessero stalattiti di membra umane. La gloria che accoglieva Antonia si componeva di raggi così abbaglianti che Lorenzo non poté sopportarne lo splendore. La sua vista si oscurò e cadde, folgorato, a terra. Quando si svegliò, si trovava effettivamente steso sul pavimento della chiesa. Era tutta illuminata e da lontano si udivano i canti dei monaci. Gli ci volle un po' di tempo per persuadersi che quel che aveva visto era solo un sogno, tanto l'impressione ricevuta era stata potente sul suo spirito. Ma, riflettendo, si convinse del suo errore. Le lampade erano state accese durante il suo sonno, e la musica che aveva udito era quella dei frati che celebravano i vespri nella cappella dell'abbazia. Si alzò e si avviò verso il monastero della sorella, la testa ancora ingombra del suo sogno singolare. Era già quasi al portone quando la sua attenzione fu attratta da un'ombra che vide muoversi sul muro opposto. Si rannicchiò in un angolo buio e guardò intorno. Un uomo, avvolto in un mantello nero, avanzava cautamente. La cosa non riguardava certo Lorenzo, ma la circospezione dello sconosciuto gli ispirò una forte curiosità. Giunto vicino alla statua di San Francesco, lo sconosciuto tirò fuori dal mantello una lettera e l'infilò in una scanalatura che si apriva sotto i piedi del santo. Poi si ritirò velocemente. «Sono capitato in qualche tenebrosa storia d'amore», si disse Lorenzo, «ma non tocca a me intervenire». E si decise a uscire. Mentre scendeva gli scalini che portano la strada, un cavaliere che li saliva lo urtò con tale violenza che tutti e due perdettero l'equilibrio e furono lì lì per cadere. Lorenzo aveva già la mano sull'elsa della spada. «Piano!» gridò. «Che significa questa brutalità?» «Siete voi, Medina», rispose una voce familiare. «Avete avuto un bel naso a non lasciare la chiesa. Dentro, vecchio mio, dentro. Tra un minuto saranno qui». «Ma chi?» «La vecchia gallina con i suoi bei pulcini. Entriamo, vi dico, entriamo e saprete tutto». Lorenzo lo seguì nella cattedrale e tutti e due si nascosero dietro la statua di San Francesco. «Allora», disse il nostro eroe, «posso prendermi la libertà di chiedervi che cosa significano questa fretta e queste scalmane?» «Fra poco vedrete vostra sorella e forse potrete anche comunicare. La badessa di Santa Chiara viene qui con tutto il suo gregge e fra un minuto le più belle mascherine di Madrid saranno davanti a noi. Fate la vostra scelta. Ambrosio deve confessarle tutte fra poco e siccome ha fatto voto di non lasciare il convento, devono per forza venirsi a confessare a domicilio». «Chissà», pensò Lorenzo, «che il mistero della lettera non venga chiarito». Don Cristobal aveva appena finito di parlare che la porta della chiesa si aprì e un dolce bisbiglio si sparse per la chiesa. La madre badessa di Santa Chiara arrivava seguita da una lunga fila di suore. Il silenzio dell'abside si riempiva di passi e di fruscii leggeri. Passando davanti alla statua di San Francesco, ogni suora si inchinava con una riverenza degna dell'etichetta di corte. Lorenzo cominciava a disperare quando, giunta a sua volta davanti alla statua, una delle religiose lasciò cadere il rosario. Mentre si abbassava, la luce colpì il suo viso e Lorenzo, esterrefatto, la riconobbe. Intanto la mano della suora aveva afferrato rapidamente la lettera nascosta sotto ai piedi del santo e se l'era infilata nel corpetto, poi riprese il suo posto in fila. «Mi sa che teniamo le fila di una bella tresca», sussurrò Don Cristobal. «Agnese! Agnese, mio Dio!» gridò Lorenzo. «Cosa? Vostra sorella? Diavolo! Ho idea che la nostra curiosità costerà cara a qualcuno. Oh, sì, me la pagherà cara! E subito!» esclamò Lorenzo fuori di sé. Quando le suore, attraversata la chiesa, scomparvero dietro la porta del convento, egli lasciò il suo nascondiglio e si slanciò verso l'uscita, ma Lorenzo gli era di fronte, con la spada in mano. «Che cosa contiene quella lettera?» chiese senza preamboli. «E che cosa vi dà il diritto di farmi una simile domanda?» «Un diritto che ora mi fa vergogna. Rispondete, e che sia con la spada, se non è con la lingua». «Scelgo la spada», disse lo sconosciuto tirando la sua dal fodero. «Forza, ammazza sette, difendetevi!» Lorenzo, rabbioso, si scagliò su di lui e le loro spade si erano incrociate diverse volte prima che Don Cristobal, che non aveva perso il suo sangue freddo, potesse buttarsi in mezzo a loro. «Fermatevi! Medina!» gridò. «Non ci si sgozza in chiesa! Pensate alle conseguenze del sangue versato in un luogo sacro!» Al nome di Medina, lo sconosciuto ritirò immediatamente la spada. «Medina! Gran Dio! È mai possibile? Lorenzo non può battersi contro Raimondo de las Eternas!» Sentendosi chiamare col suo nome, Lorenzo guardò meglio il suo avversario e subito lo riconobbe, ma non prese la mano che l'altro gli tendeva. «Voi, marchese, immischiato in una corrispondenza criminale con mia sorella!» «Corrispondenza di cui non ho da arrossire, come dei miei sentimenti per lei!» «Ma il luogo, credetemi, non è propizio a una spiegazione. Venite a casa mia e saprete tutto. Chi è con voi?» «Qualcuno che conoscete bene, che avete già incontrato altrove che in chiesa», rispose Don Cristobal strizzando l'occhio. «Il conte Ossorio? In persona e pronto eventualmente a servirvi. Non vedo perché non rivelerei anche a voi il mio segreto. E sono certo del resto di poter contare sulla vostra discrezione». «Ne siete più certo di quanto lo sia io. Preferisco ignorare tutte le vostre confidenze. Addio, marchese. Dove vi si può trovare?» «A Palazzo Las Eternas, come sempre. Ma non dimenticate che sono qui in incognito e che mi si conosce sotto il nome di Alfonso d'Alvarado». «Benissimo. Addio, cavalieri», disse Don Cristobal e si allontanò rapidamente. Uscirono nel momento in cui il portinaio dei Cappuccini si faceva un dovere di chiudere le porte e il falso Alfonso condusse Lorenzo a Palazzo Lasiternas. Appena uscita dalla chiesa, Leonella enunciò diffusamente le sue impressioni. Per bello non si può dire che il vostro Lorenzo non sia bello. Ha un certo fascino e i suoi modi non sono privi di distinzione. Si è dimostrato abbastanza premuroso e le cose potrebbero anche non fermarsi lì per quanto vi riguarda, ma per quel che riguarda il mio Don Cristobal... Mi vedete assolutamente abbagliata, mia cara, e se mai qualcuno potrà persuadermi a rompere il mio voto di celibato, questo qualcuno non potrà essere diverso da lui. Antonia, ben lontana dall'aderire alle illusioni della zia sulle premure di Don Cristobal, si contenne ed ebbe la delicata pietà di non aprir bocca. Credo che gli annali femminili del mondo non citino altri esempi di una simile discrezione. Erano quasi arrivate a casa quando una folla assiepata e gesticolante impedì loro di raggiungere la porta. Si spinsero fino al marciapiede opposto e sulla punta dei piedi cercarono di scoprire l'ostacolo che non le lasciava andare avanti. Una donna, di statura così gigantesca che sembrava issata su dei trampoli, roteava come un derviscio in mezzo a un cerchio di gente sbalordita. La sua pelle era color del bronzo nero, il suo sguardo amaro e penetrante. Dopo una serie di giri, si fermava e tracciava per terra dei segni complicati con una lunga bacchetta di legno scuro. Quanto al suo costume, era veramente incomprensibile. Aveva qualcosa dell'uomo e qualcosa del prete. Stoffe multicolori lo componevano, aggiustate con un gusto bizzarro ma sicuro. Non si poteva darle un'età e dal suo viso emanava un'impressione di bellezza indecifrabile che andava a imparentarsi attraverso i secoli a tipi ormai dimenticati. «È una pazza?» chiese Antonia a bassa voce guardandola allarmata. «No, non è una pazza, è una dannata!» le rispose vivacemente la zia. «Un'empia destinata alle fiamme, non ha una parola, non ha un respiro che non sia peccato!» La zingara la udì e andò dritta verso di loro. Le salutò entrambe tre volte alla maniera orientale, poi, rivolgendosi ad Antonia, la pregò di mostrarle la mano. Leonella chiocciò tutta irritata e cercò di trascinare via la nipote, ma questa si mostrò così riluttante e tanto la supplicò di permettere all'indovina di predirle il futuro, che, cavata una moneta di tasca, la gettò alla zingara. «Avanti!» «Buona donna», disse, «ecco le nostre mani. Prendete questo denaro e fateci l'oroscopo». Antonia si levò il guanto e porse una mano candida che la zingara prese con emozione. Uno strano turbamento si era impadronito di lei e gli astanti trattenevano il respiro, quasi fossero consapevoli della gravità delle parole che stava per pronunciare. «Temete sempre quel che è troppo puro, e quando incrocerà la vostra strada un uomo di virtù rigida e austera, più retto di quel che è lecito all'umano. Diffidate. Sono in lui l'orgoglio e la lussuria.